Lei anni 26 viene d'Ortisei, è una bella bionda della Val Gardena. Lui anni 33 viene da Malè, è un bel giovanotto della Tridentina. Proprio stamane si sono sposati, perciò festeggiarli dobbiamo. Dai che cantiamo un po' tutti quanti in cor questo ritornello di felicità. Brindiamo all'amore e i calici alziamo. Cin cin trullalleroli trullallerolà. Il vino è sincero, sinceri noi siamo. Cin cin trullalleroli trullallerolà. Tra bocca nei calici il vin, come l'amor nei cuori. L'amor che ha saputo riunir due cuori in un cin cin. Brindiamo all'amore gridando un urrà. Cin cin trullalleroli trullallerolà. Urrà! Lui sottovoce a lei le sussurra, sai, prenderemo il treno della Val Gardena. Lei sorridendo a lui gli risponde ormai, io ti seguirò persino sulla luna. L'ultimo è viva squillante, saluta gli sposi che partono già. Dai che cantiamo ancora tutti quanti in cor questo ritornello di felicità. Brindiamo all'amore e i calici alziamo. Cin cin trullalleroli trullallerolà. Il vino è sincero, sinceri noi siamo. Cin cin trullalleroli trullallerolà. Tra bocca nei calici il vin, come l'amor nei cuori. L'amor che ha saputo riunir due cuori in un cin cin. Brindiamo all'amore gridando un urrà. Cin cin trullalleroli trullallerolà. Urrà! Nei calici il vin, come l'amor nei cuori, l'amor che ha saputo riunir due cuori in un cin cin. Brindiamo all'amore gridando un urrà. Cin cin trullalleroli trullallerolà. Urrà!